Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è chi dice che esista una differenza piuttosto sottile tra un figlio d'arte e un figlio di papà. Ho lavorato con registi completamente diversi fra di loro. Mio padre è forse il più abile con la macchina da presa e quello che racconta delle storie che toccano l'inconscio dello spettatore più di chiunque altro. La voce che avete appena sentito è quella di Asia Argento, figlia d'arte al quadrato, se così si può dire. Il padre ovviamente è Dario Argento, regista di culto specializzato nel genere horror. E la madre non è certo da meno. Trattasi di Daria Nicolodi, protagonista femminile di Profondo Rosso, celeberrima e indimenticabile pellicola di cui state ascoltando l'inquietante colonna sonora. Un amore sbocciato sul set tra il regista e la sua attrice principale, certamente affascinata dal piglio autoritario e dalla competenza del maestro. Ma Asia, nata proprio da quest'unione di talenti, fa capire come non sia stata una passeggiata. Sentivo di dover dimostrare qualcosa. Sentivo, qua in Italia avevo un po' bruciato i ponti con la mia ribellione. E allora ho dovuto dimostrare a me stessa, anche forse agli italiani, più che altro alla stampa, più che al pubblico, di saper camminare con le mie gambe e di poter avere una carriera anche fuori da qui. Dalle parole dell'Argento traspare la fatica di chi ha tentato per tutta la propria carriera e ancora tenta di scrollarsi di dosso il marchio di famiglia e il peso di un cognome così importante. Certo, è proprio in virtù di quel cognome che Asia, come tanti altri figli d'arte, ha potuto iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo da una posizione di vantaggio. Ne sa qualcosa anche Alessandro Gassman. Era poco interessato al metodo, era molto interessato al risultato. E la cosa divertente era che quando era regista in teatro dei suoi spettacoli esigeva dagli attori da lui diretti che ottenessero i suoi stessi risultati. Dato che nessuno di noi era Vittorio Gassman, né per mezzi né per capacità artistiche, era una meta irraggiungibile per tutti noi e questo lo faceva molto incazzare. Non deve essere mica facile essere il figlio di Vittorio Gassman, uno degli attori teatrali e cinematografici più celebrati e compianti del nostro paese. Un talento capace di spaziare senza battere ciglio dalla Divina Commedia alla commedia all'italiana. È un'eredità importante quella che sta sulle spalle del figlio Alessandro. Il confronto con il padre lo tormenterà per sempre. Il suo ricordo sarà una guida, un monito e un inevitabile termine di paragone ogni volta che calcherà le assi di un palcoscenico o starà davanti a una macchina da presa. Può darsi che avere un genitore nel mondo dello spettacolo sia un ottimo punto di partenza, un trampolino di lancio privilegiato, una corsia preferenziale per accedere a un mondo esclusivo. Ma non basta, bisogna dimostrare a tutti i costi di valere, al di là dei cognomi altisonanti. Figli d'arte o figli di papà, Argento o Gassman, eredi di una dinastia di attori o di registi, quello che conta è darsi da fare, far valere il proprio talento e la propria determinazione sul campo, anzi, sul set. Essere figli di qualcuno o non essere figli di nessuno non è certo una questione di scelte, ma semplicemente un problema di eredità. I due protagonisti di oggi sono nati respirando l'atmosfera luccicante ed esaltante del mondo dello spettacolo. Sono cresciuti nella ferma convinzione di voler far parte di quel mondo dando corso a loro modo alle tradizioni di famiglia. Può darsi che i loro cognomi non risuonino altisonanti alle nostre orecchie italiane, ma in Francia questi due signori sono i giovani rampolli di famiglie di artisti e non hanno certo intenzione di essere da meno. Andiamo a conoscere il primo. Per farlo ci spostiamo a Parigi. Sentite questa musica così morbida e così tipicamente parigina? È la colonna sonora perfetta per girovagare tra i palazzi e le strade di quella che a partire dai primi anni 50 e almeno per tutto il ventennio successivo sarà la capitale indiscussa della cultura europea, soprattutto cinematografica. È proprio qui a Parigi che nel 1951 nascono i Cahiers du Cinéma, celeberrima e temutissima rivista di critica cinematografica, da cui prenderà il via una delle rivoluzioni visive e concettuali più significative della settima arte, la Nouvelle Vague. Nata allo scadere degli anni 50, la Nouvelle Vague si nutre del talento di cineasti come François Truffaut e Jean-Luc Godard. E proprio negli anni del loro massimo fervore artistico, in quella stessa Parigi, segnata da tanto fermento culturale, che nasce il nostro primo protagonista di oggi. Il suo nome è Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz. Se i miei genitori fossero stati panettieri, probabilmente avrei fatto il panettiere. Ma erano due filmmaker. Che ci vuoi fare? A quanto pare, il destino di Mathieu è già segnato, prima ancora che venga al mondo nel torrido agosto del 1967. Il padre è un regista e sceneggiatore di origini ungheresi, e la madre un'esperta di montaggio, la sottile arte della giusta posizione delle immagini cinematografiche, indispensabile alla riuscita di un buon film. Con due genitori così è impossibile non crescere intrisi di curiosità verso il cinema. La passione l'ho ereditata sia da mio padre che da mia madre. Lei era un'esperta di montaggio e io stavo chiuso per ore con lei nella stanza in cui tagliuzzava i pezzi di pellicola. Passavo metà del tempo a guardarla mentre lavorava e l'altra metà al cinema. Allora, nei primi anni 70 non c'erano i videoregistratori. Se volevi vedere un film, dovevi vederlo al cinema. Punto. Se te lo perdevi nelle sale, dovevi aspettare 5 anni perché lo dessero in TV. A quel punto, se eri davvero un appassionato, facevi molto prima vedertelo al cinema. Ecco perché io ci passavo le mie giornate. Mathieu passa così tanto tempo seduto sulle soffici poltrone di velluto del cinema di quartiere da trascurare completamente gli impegni scolastici. E i suoi genitori sono troppo impegnati con le rispettive carriere per accorgersi delle intemperanze del figlio, anzi addirittura le assecondano. Il padre, Peter Kassovitz, nel 1979 chiama il figlio dodicenne a interpretare un piccolo ruolo in un suo lungometraggio, la cui protagonista femminile è l'affascinante Jean Birkin. L'atmosfera sul set si imprime in maniera indelebile di Mathieu, che da quel momento in poi non ha più dubbi sul suo futuro. Ho mollato la scuola a 17 anni perché volevo entrare nel mondo del cinema. Sapevo già cosa volevo, l'ho sempre saputo. E poi a scuola facevo schifo, perciò direi che è stato meglio così. Niente più banchi, niente più libri e niente più professori per il giovane Mathieu. Il cinema sarà la sua scuola e la sua palestra, oltre che il suo obiettivo dichiarato. E il suo destino sarà quello di stare dietro alla macchina da presa, ancor prima che davanti. Il mio vero mestiere è quello del regista. Le esperienze come attore sono sempre venute fuori un po' per caso, mi hanno cercato, ho accettato le proposte. E poi recitare mi serve per osservare altri registi sul set, a imparare nuove cose per quando tornerò dietro la macchina da presa. Dopo le prime interpretazioni sotto la guida paterna, il ventenne Kassovitz si sente pronto per camminare con le proprie gambe. Nel 1990 gira il suo primo cortometraggio ed è contemporaneamente sia dietro che davanti alla macchina da presa. Il suo stile non ha nulla a che fare con la tradizione francese che lo ha visto nascere e crescere. Se sei un appassionato di cinema e sei cresciuto negli anni 80, beh, quello era un periodo esaltante. C'erano tutti quei registi che avevano imparato dalla Nouvelle Vague, ma poi avevano fatto di testa loro. Pensa allo Squalo di Spielberg, a Guerre Stellari di Lucas. Fare di testa propria. Ecco il pallino del giovane Kassovitz. Staccarsi dalla tradizione cinematografica familiare e nazionale e dimostrare al mondo di farcela da solo. È il 1991 quando il suo secondo cortometraggio, Cauchemar Blanc, riceve l'attenzione della giuria del Festival di Cannes. È arrivato il momento di passare al lungo formato, ma per lanciarsi nel mondo dei lungometraggi, per farcela nel complicato universo del cinema vero, ha bisogno del supporto di qualcuno che, come lui, sia figlio del fermento cinematografico della Nouvelle Vague. Ma senta allo stesso tempo l'esigenza di staccarsene, di dimostrare al mondo il proprio valore. Questo qualcuno è un suo coetaneo e, proprio come Kassovitz, è un figlio d'arte. È il secondo protagonista della nostra storia. Il suo nome è Vincent Cassel. Vincent Cassel. Sì, avete capito bene. Stiamo parlando di quello stesso Vincent Cassel che oggi riempie le pagine delle riviste patinate e dribbla con astuzia le incursioni dei paparazzi. Ma all'inizio degli anni 90 Vincent è solo un ragazzo poco più che ventenne che cerca di trovare la propria strada nel rutilante mondo dello spettacolo. Matteo Cassovizza e Vincent Cassel sono entrambi figli d'arte, sono coetanei, sono agli albori delle rispettive carriere e proiettati verso un futuro pieno di successi. Sono pronti a lasciarsi alle spalle i retaggi dei loro cognomi e ansiosi di imbarcarsi nell'avventura cinematografica che cambierà per sempre le loro vite. Cassovizza, di preferenza, starà dietro alla macchina da presa. Cassel, invece, diventerà il volto duplice, triplice, molteplice di una quantità smisurata di personaggi, tutti diversi e tutti affascinanti. Già il volto di Cassel, quel viso un po' spigoloso e magnetico che ormai siamo abituati a vedere sui giornali e in TV, sorridente accanto alla sua bellissima moglie italiana. Ma non è ancora il momento di parlare di lei. Torniamo alla nostra storia e facciamo un passo indietro. Andiamo a scoprire le origini di Vincent Cassel. Vi dicono niente i nomi di Claude Chabrol, Louis Buñuel, Sidney Lumet? Sono tutti nomi di grandi registi che hanno avuto il piacere di lavorare con Jean-Pierre Cassel, il padre del nostro secondo protagonista di oggi. Non è difficile credere che con un genitore simile il piccolo Vincent fin da bambino sogni una carriera nel mondo dello spettacolo. I successi paterni sono sotto i suoi occhi tutti i giorni. Studia canto, ballo, recitazione con costanza e impegno. Segue addirittura un corso di discipline acrobatiche in una scuola circense. Ancora non sa esattamente in cosa specializzarsi. Quello che conta è mettercela tutta. Sarà poi il destino a scegliere la via giusta in qualche modo. Il motivo per cui hai fatto l'attore è stato perché la danza ti aveva terrorizzato? No, ho sempre visto la danza come un in più. Penso che per un attore di sapere un po' muoversi è una cosa importante. Certo, è importante che un attore sappia muoversi, ma è ancora più importante che sappia recitare. Ed è proprio la recitazione a emergere con forza tra le passioni artistiche del giovanissimo Vincent. L'immedesimazione nel personaggio, la temporanea immersione nel carattere e nei gesti di un individuo estraneo, spesso totalmente diverso da lui, lo esaltano al punto da diventare una vera e propria necessità. Quando sei un attore, credo che tu debba abituarti all'idea di sparire. Io personalmente recito proprio per svanire, per liberarmi di me stesso per un po'. Vincent non esita e comincia a liberarsi di se stesso a 20 anni, prendendo parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive francesi. La prima grande occasione arriva nel 1991, quando viene diretto da Philippe de Broca nel lungometraggio Des Clés du Paradis. La sua ottima interpretazione gli permette di farsi notare dagli addetti ai lavori, compreso un giovane attore e regista in erba, ansioso di realizzare il suo primo lungometraggio. Stiamo parlando, ovviamente, di Matteo Cassovitz. Cassovitz è alle prese con il progetto del suo primo lungometraggio dal titolo Meticcio e sceglie proprio Cassel per interpretarvi una piccola parte. Vincent è a dir poco lusingato. È un ammiratore del coetaneo regista e crede sinceramente che il suo stile visivo rappresenti in tutto e per tutto l'energia della loro generazione e la voglia dei nuovi figli della Francia di liberarsi dai retaggi delle famiglie e delle tradizioni che li hanno preceduti. Due giovani poco più che ventenni, alle prime armi, pieni di sogni e di voglia di emergere, due ragazzi che grazie a un incontro e alle tante affinità che li avvicinano formeranno un team vincente, destinato a scrivere una pagina importantissima della storia del cinema francese e mondiale. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Destini incrociati. Destini Incrociati sta seguendo le carriere di Mathieu Kassovitz e Vincent Cassel, due giovani figli d'arte intenzionati a superare la fama dei padri, noti attori e registi del panorama del cinema francese mondiale. Le premesse sono ottime. Kassovitz è alle prese col suo primo lungometraggio, Meticcio, pellicola nella quale Cassel ricopre un ruolo piccolo ma significativo. Si tratta della loro prima collaborazione, della prima volta in cui i due ragazzi mettono piede sullo stesso set, lavorando fianco a fianco, anzi di più. Kassovitz dirige Cassel per la prima volta, inaugurando quella che diventerà ben presto una felice abitudine. I due ormai diventati amici sono pronti a percorrere un pezzo di strada insieme. Li aspetta un futuro luminoso sotto i riflettori del mondo dello spettacolo. Il successo di Meticcio è travolgente e inaspettato. Il film si merita addirittura due nomination ai César, prestigiosissimo riconoscimento cinematografico d'Oltralpe. Kassovitz concorre nella categoria Miglior Opera Prima. Niente male per essere solo un principiante, ma il meglio deve ancora arrivare. È il 1995 quando Kassovitz convoca nuovamente Cassel per recitare in un suo film. È la sua seconda prova da regista e stavolta quello di Vincent non sarà un ruolo marginale. È chiamato a interpretare uno dei tre protagonisti di una storia dura, cruda, difficile. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Avete riconosciuto queste poche battute? È la straordinaria sequenza d'apertura de L'Odio, secondo lungometraggio di Mathieu Kassovitz. 20 ore spalmate fra una giornata balorda e una notte brava nella vita di tre giovani figli della Francia proletaria. Un magrebino, un africano e un bianco ebreo, quest'ultimo interpretato da un nervoso e convincente Vincent Cassel. Il ruolo del giovane Vance, praticamente un suo omonimo, gli calca a pennello, nonostante sia quanto di più diverso potrebbe esserci dalla realtà. Cassel è figlio della borghesia, cresciuto nei quartieri della Parigi bene, e non certo nei grigi, tetri palazzoni dell'Interland. Eppure Kassovitz non ha esitato un secondo ad assegnargli la parte, come ci spiega lui stesso. Mi attirava l'idea di fargli interpretare un personaggio molto diverso da quello che è nella vita. L'Odio racconta la storia di tre ragazzi alla deriva tra il quartiere di Muguet, 30 km in linea d'aria dalla Tour Eiffel, e il centro di Parigi. Ma la distanza metaforica e psicologica tra il centro e la periferia è molto più grande di quella fisica. Nel loro vagabondare, infatti, c'è un pericolosissimo mix di disperazione, rabbia, odio. Tutte emozioni difficili da gestire, specialmente se si è giovani, inesperti, affamati di esperienze. Io non c'ho bisogno di niente, di nessuno, tantomeno di chi si vende il culo alla polizia. Cioè, ridi, bravo, bravo. Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda, a vivere dentro cessi pozzolenti, e tu che fai per cambiare la situazione? Manco muovi le chiappe, tu nemmeno. Allora ve lo dico a voi, visto che siete amici miei. Fate che Abdel crepa, io i conti li pareggio. Uno di quei porci io lo ammazzo. Il monologo pronunciato da Vincent non lascia dubbi. In periferia la rabbia e la frustrazione hanno davvero raggiunto il colmo. Nessuno, meglio di Cassel, con quel suo viso duro e spigoloso da ragazzo cresciuto troppo in fretta, può interpretare un simile disagio. On a les preuves, sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vite, vite, rêve. Nous allons s'entasser salement, perdu dans le brouillard. Optimiste, crache un rap qui motive les royas. Sale temps, personne n'a le temps d'être patient. Tu peignes dans la routine, ton quotidien est lassant. Soldat, je note quelques rimes sur mon portable. Hyperactif depuis gosse. On me dit que je suis insortable. Ok, dans les locaux c'est Hala. C'est Jamal Poto qui passe le salam au rose sur le macadam. L'Odio è il capofila dei film di banlieue, che in francese vuol dire periferia. È un cinema che rispecchia la tendenza a raccontare la lacerata realtà del degrado suburbano e metropolitano, senza fronzoli e senza mezze misure. Kassovitz, grazie alle interpretazioni degli attori che stanno davanti alla sua macchina da presa, Vincent Cassel in testa, si fa paladino di quella gioventù urbana che oscilla pericolosamente tra la voglia di integrazione e una profonda insicurezza. Un senso di spaesamento e una mancanza di reali riferimenti che, troppo spesso, sfociano nella violenza. Tre anni fa c'è stato un episodio grave a Parigi. Un ragazzo di periferia fu ucciso dalla polizia. Questo fatto mi ha molto colpito e ho pensato che meritasse di essere raccontato in un film. Ho scritto il soggetto e l'ho proposto ad un produttore con il quale avevo già lavorato fin dai miei cortometraggi. Trovare i soldi non è stato semplice, dato il soggetto e il fatto che il film doveva essere girato in bianco e nero. L'assenza di colore nell'odio è sinonimo di mancata appartenenza e testimonia il grigiore delle vite di chi non riesce a sfuggire alle tentazioni della rabbia e della disillusione. L'unico disperato tentativo di ricerca di una qualche identità avviene davanti allo specchio, al quale Vincent Cassel si rivolge scimmiottando una celeberrima sequenza cinematografica. Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Vince è alla ricerca di un'identità che forse solo i miti del cinema possono dargli. È per questo che si ritrova a imitare uno dei suoi eroi della finzione sul grande schermo, il grande Robert De Niro, in una famosa scena di Taxi Driver. Ma dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Ma con chi credi di parlare tu? Questa sequenza, come ci tiene a specificare Kassovitz, è molto più di un semplice omaggio alla tradizione cinematografica. È ovvio che sia un riferimento al film, ma è evidente che parlare allo specchio sia una cosa che abbiamo fatto tutti da bambini o da ragazzi, anche senza aver mai visto Taxi Driver. È molto più di una citazione. È un riferimento alla realtà della vita. Io, tanto per fare un esempio, stavo sempre davanti allo specchio ad imitare Bruce Willis. Kassovitz sottolinea anche l'universalità del messaggio del suo film. Nonostante l'ambientazione smaccatamente parigina, a lui interessa parlare a tutti i giovani di tutto il mondo. Certe situazioni e certe condizioni di disagio non sono certo prerogativa di un unico paese. Tutti i ragazzi di tutto il mondo hanno gli stessi problemi. A Londra, a New York, a Parigi, dappertutto. Voglio parlare a tutti, mica solo ai miei compatrioti. Il risultato è un film che va al di là di tutte le aspettative, soprattutto se si considera che sia Kassovitz che Cassel hanno davvero poca esperienza alle spalle. Ci siamo sforzati di fare di questa storia un vero film di cinema e non un documentario. Un film dove ci si commuove, dove si ride, dove ci si appassiona e tutto quanto. Questo implica inevitabilmente una deformazione del reale, ma nel cinema bisogna trovare un compromesso tra quello che è interessante e quello che è veritiero. L'odio riscuote un successo immediato di pubblico e di critica. 2 milioni di francesi si precipitano al cinema a vederlo e la proiezione in concorso al blasonato Festival di Cannes suscita immediatamente scalpore nel senso più positivo del termine. Acclamato come la nuova leva del cinema francese, ad appena 28 anni, Kassovitz si ritrova a stringere tra le mani la prestigiosissima Palma d'Oro, premio che nel corso dei decenni è stato conferito a registi del calibro di Roberto Rossellini, Orson Welles, Michelangelo Antonioni e Francis Ford Coppola, giusto per citarne alcuni. È l'inizio di una nuova stagione del cinema francese, è l'inizio di due carriere destinate a rivelarsi splendenti e durature. Vincent Cassel, in particolare, viene acclamato come nuovo paladino della recitazione di qualità. Da questo momento in poi, le offerte per lui inizieranno a susseguirsi senza sosta e sarà proprio da una proposta di lavoro che scaturirà una nuova meravigliosa stagione della sua vita privata, oltre che di quella professionale. Sul set, Cassel, oltre che la consacrazione internazionale, troverà l'amore. Ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. Destini incrociati. Destini incrociati è testimone dello sbocciare delle carriere di Mathieu Kassovitz e Vincent Cassel, un regista e un attore destinati a segnare in modo indelebile il volto del cinema francese, e non solo. Dopo l'enorme successo del film L'Odio, suggellato dalla vittoria al Festival di Cannes, per i due amici e figli d'arte si spalancano improvvisamente innumerevoli porte. Kassovitz viene corteggiato da Hollywood, mentre Cassel, nel 1996, entra a far parte del cast di L'Appartement, film francese sul cui set ha la fortuna di incontrare una bellissima attrice italiana della quale si innamora perdutamente. L'attrice di cui stiamo parlando, ovviamente, è Monica Bellucci. Nel frattempo Vincent Cassel smette di gravitare unicamente in territorio francese e diventa a tutti gli effetti un attore d'esportazione. L'Italia è tra i primi paesi a offrirgli una ribalta e un modo per dimostrare il suo enorme valore, e non solo quelli. Com'è il tuo rapporto di coppia? Questo è tuo marito, Vincent Cassel? Ho azzardato un francese che non mi appartiene. Vincent. Perfetto, Vincent Cassel. Allora, che domanda. Com'è il tuo rapporto di coppia in una televisione con... Il mio rapporto di coppia è... Cioè, no, che fate, non lo voglio sapere. No, lo so. Cioè, come... No, ma stiamo insieme da 11 anni. Quindi, insomma, ci siamo messi insieme che eravamo molto giovani, per cui chiaramente stiamo crescendo insieme. Io credo che nella vita è normale stare da soli ed è molto, invece... particolare e non ovvio essere in coppia, no? Noi pensiamo che essere in coppia è la cosa normale. No, io credo che la normalità è stare da soli. Quindi una coppia che continua in qualche modo a stare insieme per me è una specie di miracolo. Per cui non dico mai quanto durerà, mi dico che ogni giorno è un giorno in più e che continui così. Quello di Vincent Cassel è un volto ormai ben noto alle cronache, all'immaginario e all'invidia della popolazione italiana, specialmente maschile. Non è da tutti riuscire a conquistare le attenzioni e il cuore di quella che certamente è considerata una delle donne più belle del mondo. La sua è una bellezza morbida, lontana dalla magrezza ostentata che oggi popola decine e decine di campagne pubblicitarie. Monica, facciamo una cosa, se ti piace tanto Eros, tanto è uguale, cioè nel senso, io sicuro che riesco a fare... Allora, facciamo una cosa, voglio fare un piccolo esperimento di televisione. Si può fare? Vorremmo fare un primo piano a Monica Bellucci della durata di un minuto. No, dai, ancora una cosa. Io poi voglio vedere il grafico degli ascolti, se in questo minuto gli italiani saranno abbagliati dalla tua bellezza. Ti prego. No, mentre... quello dice l'ascolto è responsabilità. Guarda che se no... Scusa. No. Veramente, tu fai questa cosa, ti metti in primo piano e gli italiani rimarranno lincolati perché sei veramente... Cioè, guarda, facciamo il primo... Mentre però tu fai il primo piano, io canto... Più bella cosa che c'è, dai! La canti? Sì! Primo piano di Monica per un minuto a partire da questo momento! Sono passati solo 10 secondi. Come comincia andare io non saprei, la storia è infinita con te. Che sei diventata la mia lei. Mentre Vincent Cassel è occupato a far breccia nel cuore della Bellucci, Kassovitz ne approfitta per tornare temporaneamente a una sua vecchia passione, quella per la recitazione. Nel 2001 è il protagonista maschile dell'acclamato film francese Il favoloso mondo di Amélie, accanto alla bella Audrey Tautou. E Nino è qua? Non c'è mai mercoledì, lavora alla Giostra del Trono. Da molto che fa questa collezione? Oh, da quando lavora qui? Da un anno. L'ho fatto assumere io. Prima collezionava impronte di passi nel cemento. Sì, faceva la guardia notturna. E poi passava le sue giornate a fotografare tutti i posti dove qualcuno camminava per sbaglio sul cemento fresco. Ah, vive in un mondo suo. L'ho conosciuto che faceva Babbo Natale ai grandi magazzini. E poi altre cose, che so. Le risate, per esempio. Quando sentiva ridere un po' strano, si precipitava a registrare. Beh, per la sua fidanzata non deve essere una cosa semplice. Ah, ma non è stato mai capace di tenersene una. Tempi duri per i sognatori. Altro che tempi duri. Dal 1995 in poi, per Kassovitz, la strada è tutta in discesa. Partecipa a una produzione via l'altra, equamente diviso tra la terra natia e quella promessa, gli Stati Uniti d'America. A me non interessa avere successo in Francia. Quel che mi interessa è fare film che abbiano così tanto successo in America da diventare famosi anche in Francia. La volontà di staccarsi dalla tradizione, dai retaggi della famiglia, dalla nomea di figlio di... lo ha portato a stupire le platee d'oltreoceano, conquistandosi non solo la fiducia del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori. Molti produttori lo cercano e molte celebrità hollywoodiane vogliono che sia lui a dirigerli sul set. Se nel 2003 è la volta di Halle Berry nel thriller Gothica, il 2006 lo vede impegnato con Vin Diesel nel fantascientifico Babylon AD, e poco gli importa se alcuni lo accusano di essere un autore commerciale. Non me ne frega un tubo di accontentare i palati difficili, soprattutto dei miei connazionali. A me frega di diventare un regista di fama internazionale, quello sì. Anche la carriera di Vincent Cassel procede a gonfie vele e la sua fama si espande rapidamente oltre oceano. Entra a far parte del cast di Ocean's 12 e 13, a fianco di monumenti hollywoodiani quali George Clooney e Brad Pitt. Ma non sono solo le produzioni sbanca botteghino ad attirarlo. Nel 2007, Vincent ha la fortuna di lavorare con uno dei registi più controversi e idolatrati del cinema postmoderno. Stiamo parlando di David Cronenberg. È sul set della Promessa dell'assassino che Cassel ha modo di perfezionare ulteriormente il suo lato cattivo e inquietante, vestendo i panni di un esponente della malavita russa. Una palestra perfetta per allenarsi al suo ruolo di maggior successo, quello del gangster Jacques Mesrine in Nemico pubblico numero uno. Nel nostro lavoro c'è poco da guadagnare e a fine carriera, se ti è andata bene, avrai questo. E quanto può accaderti di meno grave, capisci, Jacques Mesrine? Ti ringrazio per il consiglio, me lo ricorderò. Comunque, se come dici vuoi davvero rivolgerti a me come ad un amico, beh, chiamami Jacques. Il ruolo di Jacques Mesrine ha costretto Vincent a un'immedesimazione e a una trasfigurazione fisica, oltre che meramente psicologica. Ho dovuto ingrassare di 20 kg per quel film. Non ero più me stesso. Portavo la barba e i capelli lunghi, ero trasformato fisicamente e la trasformazione ti aiuta davvero ad uscire da te stesso e proiettarti in qualcos'altro. Una bella fatica, certamente, ma ne è valsa la pena. Critica e botteghino premiano i suoi sforzi e presto arriva anche il riconoscimento più prestigioso di Francia, il César come migliore protagonista maschile. E poi je remercie ma famille. Monica. Ed va. Amore, vai a dormire adesso, l'ho preso, vai. Vincent Cassel ha conquistato pubblico, critica, è una delle attrici più desiderate al mondo. Forse niente di tutto questo sarebbe accaduto se non fosse stato per Mathieu Kassovitz e la sua volontà di scritturarlo ne L'Odio, un film che ha segnato le carriere di entrambi, oltre ad aver scritto una delle più belle pagine del cinema francese e più in generale di quello contemporaneo. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui...